Incontri di Gianfranco Fabi. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old. Con la musica di Cat Stevens, Fazer & Son, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Fabrizio Areggi Bentivoglio. Fabrizio Areggi Bentivoglio, ecco, prima di presentarla, ci dica perché Cat Stevens. Ma Cat Stevens, buonasera intanto, è una musica senza tempo che si applica in tutti i contesti e che dura da molti anni. Per me è una musica che mi ricorda non solo la mia giovinezza quando ero figlio, ma adesso l'ho utilizzata anche dal punto di vista del padre. In un libro che ho scritto recentemente, uno dei capitoli proprio ispirato alla canzone di Cat Stevens, ed è un po' il rapporto tra me padre e i miei figli. Ecco, in ordine sparso, questo è il libro che lei ha scritto, in cui si racconta questo rapporto tra padre e figlio. Allora, spieghiamo chi è suo padre, di chi è figlio, come nasce anche la sua esperienza imprenditoriale. Mio padre è stato avvocato, imprenditore, figlia farmaceutici, è stata la nostra azienda per molti anni. Io sono cresciuto in questo contesto, in questa famiglia imprenditoriale, e poi laureato sono partito, sono andato a fare le mie esperienze all'estero, studiando al master e lavorando per le multinazionali, e quindi il rapporto padre figlio ma anche professionale è sempre stato visto e vissuto a distanza. Ma non in termini conflittuali? No, assolutamente non in termini conflittuali, però quello che mi è piaciuto così elaborare un po' nel libro, che parla dei figli ma non solo dei figli, è proprio l'evoluzione dei rapporti e come questi cambiano, si evolvono e come maturano anche. Ecco, in pratica lei è passato da un'avventura imprenditoriale a un'avventura finanziaria. Assolutamente, provengo dall'impresa, ma poi sono passato giovane nelle multinazionali, e soltanto 6 o 7 anni fa, quando abbiamo venduto la nostra azienda farmaceutica, ho cominciato a gestire la holding filia finanziaria, e quindi in un ambiente molto più finanziario e molto più anche internazionale, perché siamo un po' basati tra Milano e New York. Ecco, se non sono indiscreto, ma il mio compito è essere indiscreto, qual era la ragione di fondo per cui non ha portato avanti l'esperienza imprenditoriale, ha preferito allargare anche le competenze a un ambito finanziario, e poi magari lo vedremo più avanti, allargare all'ambito americano e non restare in Italia, a Padova, che è una bella città dove si vive bene peraltro. È una bella città dove si vive anche bene, con tutti i pregi e i difetti della provincia, ma è una provincia che io avevo lasciato subito dopo l'università per andare a studiare negli Stati Uniti. E quindi dopo alcuni anni all'estero, sempre con l'idea di farne un paio e poi tornare nell'azienda di famiglia, dopo 15 questo non si è ancora verificato, e quindi l'evoluzione della vita ha portato in direzioni diverse e abbiamo poi deciso di vendere l'azienda. Ecco, questo è una decisione di vendere l'azienda, anche riferito a che gestire un'azienda in Italia è un po' complicato e quindi è meglio allargare i propri orizzonti? Non c'è dubbio, fare l'imprenditore in Italia è estremamente complicato per tutte le cose che sentiamo e di cui spesso si sente parlare. Io poi provenivo da un'esperienza di dirigente nelle multinazionali all'estero, per cui l'idea di tornare a fare l'imprenditore in Italia non mi allettava particolarmente, anche se ci sono ovviamente molte soddisfazioni che si possono ottenere. Ecco, Fabrizio Areggi Bentivoglio, allora, ho detto presidente, amministratore delegato di Filia Fin. Diamo un po' la carta d'identità di questa Filia Fin. Filia Fin è un ibrido tra un private equity e un family office, che significa fondamentalmente... Tradotto in italiano significa che una parte dell'azienda è gestita in investimenti in altre aziende, per farle crescere, per farle sviluppare e eventualmente anche per quotarle o poi rivenderle, e una parte invece dell'azienda è gestita in borsa, nei mercati dei capitali, in strumenti finanziari. E ha sede a New York? Abbiamo sede a Milano, abbiamo alcune attività negli Stati Uniti, il mio tempo è diviso più o meno 50-50 tra Milano e New York, che non è una cosa semplice. Grazie per essere qui questa sera con noi. Ecco, che differenza c'è tra Milano, New York e Padova? Padova è da dove provengo e quindi in qualche modo è un posto di, è quasi un po' un rifugio dove ritorno e le cose sono cambiate di poco. Milano è la cosa più vicina al resto del mondo in Italia, è la città dove, gli dico sempre, alle 10 di mattina uno ha fatto già 3 o 4 appuntamenti, ha visto 3 o 4 persone. New York è un porto attraverso il quale tutti passano, attraverso il quale le cose succedono e che ha un dinamismo, un'energia elettrizzante che dà veramente voglia di fare. Ecco, in questa prospettiva come è vista Milano da New York? Come vedono l'Italia gli americani? Ahimè, questa è una domanda che riceviamo noi tutti italiani che stiamo fuori spesso e la rilevanza dell'Italia per molti motivi è piuttosto ridotta. Gli americani amano l'Italia, amano il cibo, amano viaggiare in Italia, amano l'arte in Italia, ma di fondo l'Italia non è molto rilevante, si legge poco e male su New York Times. Ecco, comunque voi come finanziaria mi dia questa consolazione, qualcosa investite anche in Italia? Noi assolutamente abbiamo alcune aziende in Italia, abbiamo più o meno i nostri investimenti sono divisi al 50% tra Italia e diciamo America o fuori Italia e quindi assolutamente guardiamo con grande interesse e grande attenzione. Ecco, cosa pensate ci sia bisogno in Italia per smuovere un po' le cose? Si parla tanto in questo periodo di semplificazioni, di riduzioni fiscali e così via, però fare impresa in Italia è la cosa più complessa, che cos'è? Fare impresa in Italia, la cosa complessa è proprio il sistema Italia, sono quelle cose che tutti noi conosciamo e che la cui ricetta per la soluzione è più o meno nota a tutti, sono i 1000 lacci e lacciuoli che ci sono per iniziare o per sviluppare un'iniziativa imprenditoriale, sono la rigidità del sistema, dei meccanismi poco chiari che scoraggiano investitori che non conoscono questo ed meccanismo. Essendo un problema complesso non può avere soluzioni facili, sarebbe soluzioni complesse, però bisognerebbe almeno iniziare un cammino, iniziare a mettere un passo dopo l'altro nella direzione giusta. Molto spesso in Italia si fanno 2 passi avanti, 3 indietro. Sono d'accordo, la soluzione secondo me è più semplice di quello che sembra, è l'esecuzione della soluzione complessa, cioè indipendentemente da chi guarda le cose, la soluzione a certi problemi è probabilmente la stessa, ci sono relativamente poche varianti alla soluzione o alle soluzioni. Il problema è proprio il sistema Italia che rende difficile far funzionare la macchina. Ecco, in quale settore è presente particolarmente la vostra società finanziaria? In quali settori investe e quali settori ritiene che ci siano in America, in Italia o in altri paesi maggiori prospettive di crescita? Noi siamo presenti in 3 settori industriali al momento, che sono energia, il settore immobiliare e il settore finanziario. Abbiamo partecipazioni in banche, abbiamo partecipazioni in sviluppi, aziende di sviluppo immobiliare, abbiamo partecipazioni in società di energia. In America il bello dell'America è proprio la capacità di inventarsi e quindi è difficile dire quali sono i settori più promettenti. Beh, l'immobiliare ha avuto qualche problema negli ultimi tempi. Ha avuto molti problemi, però anche qui l'immobiliare è un settore talmente ampio che nell'ambito dell'immobiliare ci sono molti sottosettori e quindi non tutti hanno avuto gli stessi problemi o nella stessa misura. Certo. In Italia il problema dell'immobiliare è un problema fondamentalmente di accesso ai capitali e quindi di numero di possibili transazioni, ma il valore delle proprietà non necessariamente è crollato in tutto il paese. Beh, negli Stati Uniti qualcosa del genere è successo, c'è stato un mercato immobiliare che ha avuto quella che è stata chiamata la bolla immobiliare. Assolutamente, ed è stata una bolla immobiliare anche qui iniziata e in qualche modo causata dalla finanza che ha un po' così creato questa bolla. Ecco, è qui che volevo proprio arrivare, lei è un esponente del sistema finanziario, la finanza è messa sotto accusa, è stata messa sotto accusa molto pesantemente e con qualche ragione, come lei stesso ha detto poco fa, negli ultimi anni per essere stata una delle cause della crisi economica attuale. E la finanza è cambiata dopo l'inizio della crisi? Qualcosa è cambiato? È diventata una finanza un po' più responsabile oppure ci sono ancora dei rapaci e l'avidità che guida le scelte finanziarie? Non credo sia cambiata perché, ahimè, i vizi e le brutte abitudini sono difficili da perdersi. I problemi della bolla immobiliare, o comunque i problemi della finanza, e poi si sono estesi un po' a tutto il mercato e quindi inevitabilmente a tutto il mondo, non sono stati risolti. È sembrato, si sono fatti dei tentativi, ma credo che la cultura di quella finanza rapace di cui lei fa riferimento, che concordo appieno, non sia cambiata. Ciò non vuol dire che tutta la finanza sia rapace e non vuol dire che tutta la finanza sia negativa. Ecco, ma un padovano che è un po' fedele di Sant'Antonio comunque deve esserlo, come si trova all'interno di questo sistema? Ma innanzitutto le faccio notare che a New York e a Soho c'è una chiesa dedicata a Sant'Antonio da Padova, ma mi trovo come uno che guarda le cose senza lasciarsi troppo prendere la mano, proprio con quell'aspetto anche forse un po' spontaneo di provincialismo che a volte non guasta. Incontri. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Grazie di essere rimasti con noi, riprendiamo il nostro incontro di questa sera con Fabrizio Areggi Bentivoglio. Buonasera dottor Bentivoglio, è qui con noi Fabrizio Areggi Bentivoglio, abbiamo parlato nella prima parte, è presidente e amministratore delegato di Filia Finanziaria, un investment company che ha sedi a New York e a Milano, un po' più a New York, un po' più a Milano. Dipende a chi lo chiede, se lo chiede a mia moglie è molto più a Milano che a New York, in realtà è probabilmente metà metà, ma è una vita proprio divisa a metà. È una quindi Filia Finanziaria, una holding finanziaria che ha partecipazioni, ci spiegava il dottor Areggi Bentivoglio, in tre settori principali: quello bancario, quello energetico e quello immobiliare. Ha anche investimenti in Italia, e quindi anche il suo osservatorio è interessante per vedere come si sta sviluppando la finanza. E abbiamo chiuso proprio la prima parte parlando di questo sistema finanziario, che è ancora un sistema che ha molte colpe della crisi che è avvenuta negli ultimi anni e che, ci diceva il dottor Areggi Bentivoglio, un rimedio forte ancora non c'è stato. Allora gli chiedevo, ma un padovano che comunque deve essere fedele a Sant'Antonio, come si trova in questa realtà così fatta di una grande conflittualità, in fondo di una grande concorrenza, di una grande magari sopraffazione? Non c'è dubbio, l'America e New York in particolare, e Wall Street in particolare, è un mondo competitivo. Prima lei parlava di finanza rapace, in effetti non è poi diverso da come dice lei, però voglio dire, c'è spazio per riuscire a fare le cose con un'impostazione diversa, e c'è spazio per non lasciarsi prendere la mano. Ripeto, New York è una città che dà un po' la testa se uno cede alle tentazioni. Ecco, ma in questa prospettiva Filia Finanziaria ha anche un'attività filantropica, è un po' per salvarsi la coscienza? Guardi, penso che qualunque sia l'obiettivo, la motivazione, se l'obiettivo è raggiunto ci sta. Se fosse per salvarsi la coscienza che si fanno delle cose filantropiche, va bene lo stesso. Ma allora ci dica cosa sono, quali sono queste attività filantropiche? Ma noi storicamente, e parlo dai tempi di Filia Farmaceutici, abbiamo sempre sostenuto la cultura, abbiamo sempre sostenuto l'arte, abbiamo donato opere d'arte alla città, abbiamo restaurato il teatro anatomico dell'Università di Padova. Che sono delle cose importanti, e quindi quando ho preso in mano io le redini dell'azienda ho continuato a fare quelle cose che avevo visto fare precedentemente a mio padre, e quindi da sostenere l'arte o la cultura, come sostenendo programmi al Metropolitan Opera di New York, a sostenendo attività per i bambini, per i ragazzi che hanno avuto meno opportunità, e quindi sosteniamo una scuola nel Bronx per bambini che non hanno i mezzi. E questo cerchiamo di farlo, però con uno spirito tra virgolette imprenditoriale, cioè non soltanto mandando un assegno, ma cercando anche un po' di sporcarci le mani, quindi cercando di essere un po' fattivi in questo e anche cercando di coinvolgersi personalmente. I miei figli vengono con noi a fare queste cose. Ecco, in America, almeno da quanto si dice, è un ambiente un po' più favorevole alle attività filantropiche. Ci sono anche più sostegni pubblici, più sgravi fiscali, più facilitazioni rispetto all'Italia. Assolutamente sì, il dare è un sistema come si dice, efficiente da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista di professionalità, da un punto di vista fiscale. È un business. Ma questo è un bene, perché così la gente è incentivata a dare ed è incentivata a coinvolgersi. Ecco, in questa prospettiva, che cosa porterebbe del sistema americano in Italia? Porterei l'iniziativa e la libertà di iniziativa che si applica in tutti i settori. Prima parlavamo del dare e delle attività filantropiche, ma è lo stesso, si applica nelle attività imprenditoriali o nei servizi. È proprio l'iniziativa di poter fare, e che da noi c'è un po' persa. C'è questa libertà di azione, libertà di intraprendere, in cui ognuno poi anche paga le sue responsabilità ma può ricominciare, quindi c'è una società più flessibile, secondo. Sì, ma anche il pagare le proprie responsabilità fa parte del gioco, ma non è visto come un'onta, come una macchia. Per assurdo, l'azienda che fallisce non è la fine, è un nuovo inizio, cosa che invece in una cultura più tradizionale, più conservativa come quella italiana e inevitabilmente europea, ha un po' uno stigma che non facilita la ripresa. Ecco, in questa prospettiva Padova, il nord-est, è stato una delle fucine anche della crescita italiana negli anni 80, negli anni 70, poi dopo c'è stata una ristrutturazione, una crisi e così via. Che cosa porterebbe appunto nel nord-est delle cose americane per dare un nuovo impulso anche alla realtà locale italiana? Ma il nord-est si diceva la locomotiva d'Italia anni fa, io non lo so se sia vero, ma credo che in Italia ci siano tante mini locomotive, ci siano tanti nord-est che magari si perdono un po' a livello nazionale. Quello che serve all'Italia è la capacità e un sistema che faciliti la ripartenza, che vuol dire non tanto tecnologia, perché ne abbiamo parecchi anche noi, ma che vuol dire capitali, accesso ai capitali e delle regole del gioco chiare, applicabili e di cui si è certi dell'effetto una volta applicata la regola. Ecco, in Italia si punta molto all'Expo 2015, l'anno prossimo Milano sarà al centro. Vista un po' da fuori, vista da New York, si punta un po' troppo? Mi fa specie che mi faccia questa domanda, perché ahimè si punta molto, ma se ne parla molto in maniera disordinata e se ne parla molto in Italia, molto meno fuori. Credo che se non ci si dà un po' un sistema, un modello, l'Expo 2015 possa essere quasi un'occasione mancata. C'è ancora tempo, ma non ce n'è molto. Beh, non ce n'è molto, perché ormai mancano un anno e quindi cioè le cose da fare, a parte le cose fisiche da fare, però anche dal profilo che sottolineava lei, dal profilo della promozione, dal profilo del marketing, forse il fatto che da New York si ritenga una cosa di cui si sente parlare, ma però non è nelle corde delle persone, è significativo. Assolutamente, e l'Italia, ahimè, io lo vedo da fuori, lo dico spesso, in vari settori, penso alla cultura, penso all'arte, penso al turismo, sembrano quasi a volte delle opportunità mancate per mancanza di provarci, per mancanza di sistema, perché quello che è il patrimonio italiano è un patrimonio veramente incredibile e irripetibile, e credo che abbiamo degli assets che non sfruttiamo al meglio. Sì, certo, la Cappella degli Scrovegni, per esempio, è sfruttata, perché penso che ormai sia completa, bisogna prenotarsi con giorni di anticipo per andare a visitarla, però forse non sappiamo valorizzare tanti altri elementi dell'arte. Se dovesse portare un nuovo yorkese a Padova, oltre alla Basilica del Santo e la Cappella degli Scrovegni al Prato della Valle, dove lo porterebbe? L'Orto Botanico, il Museo degli Eremitani, il Battistero del Duomo, sono posti meravigliosi che però sono relativamente poco promossi, sono poco pubblicizzati e questo è un vero peccato. E un padovano a New York dove lo porterebbe, oltre a cose che possiamo dire, che sappiamo tutti? All'Apple Store, probabilmente sarebbe il posto che gli farebbe più piacere, perché c'è un tale mito per l'America e per le cose che provengono dall'America che quasi così ci si innamora di questi gadgets. E quindi sono più dai gadget, però, perché poi anche degli Apple Store ce li abbiamo, probabilmente ci sono anche a Padova. Sicuramente, ma l'Apple Store di New York è questo cubo di vetro che tutti vediamo nelle televisioni, tutti vediamo nei giornali, e che ha un fascino incredibile perché è un cubo di vetro in mezzo alla città. Se lei non avesse fatto il finanziere, cosa voleva fare da grande quando era piccolo? L'astronauta, il vigile del fuoco? A me piacciono le macchine, corro ancora in macchina, ma da ragazzino mi piaceva fare il pilota e quindi speravo di fare il pilota. Poi mi è stato chiaro sin dall'inizio che dovevo andare all'università, era meglio prendere una laurea, e quindi ho corso a tempo perso. Non ho mai avuto altre aspirazioni. Sono cresciuto in una famiglia di imprenditori, nonostante mio padre fosse anche avvocato, e quindi ho sempre respirato azienda. E quindi anche per la sua famiglia, per i suoi figli, lei pensa che possano continuare, o se cambiano strada vogliono fare gli artisti? Saranno liberi di farlo. Io auguro loro di non voler fare gli sportivi o gli artisti, perché sono professioni bellissime ma che richiedono un amore e un impegno per la vita difficilissimo, e purtroppo la vita a volte non è corretta con tutti. Fare l'avvocato per assurdo è più facile. Come vede i giovani di oggi? Che differenza c'è tra i giovani italiani e quelli americani? Li vedo molto migliori di come eravamo noi, molto più coinvolti, sia gli americani che gli italiani, molto più presenti, molto più a conoscenza delle cose. Noi eravamo più bambini, anche ragazzini. Beh, in Italia però c'è un po' di polemica sui giovani, c'è chi li giudica bamboccioni, chi li giudica incapaci di staccarsi dalla famiglia. Queste sono le polemiche italiane corrette, perché in effetti siamo noi giovani un po' bamboccioni, ma i giovani di oggi sono molto più presenti, hanno molto più conoscenza delle cose che succedono intorno a loro. Quelli americani rispetto a quelli italiani, ecco, forse sono un po' meno bamboccioni, sono un po' più pronti a fare, e sono un po' più coinvolti, anche per la cultura, e la scuola americana li coinvolge anche da un punto di vista civico, da un punto di vista sociale, molto di più di come ricordo ai miei tempi, e quindi credo che siano un pochettino più coinvolti. E anche per questo che dei giovani che magari vanno in America poi fanno fatica a tornare indietro. Io dico sempre, c'è il punto di non ritorno. Io sono andato con l'idea di stare in America 2 anni, di fare il master e cominciare a lavorare. Sono 20 anni che sono lì. E quindi hai intenzione di starci non solo per 20 anni, ma non poniamo limiti? No, ogni tanto penso che ci sia un valore a tornare. Penso ai miei figli, che non voglio che siano solamente americani. Però è difficile tornare, perché le buone abitudini si pigliano e ci sono delle cose che si danno per scontate e che in realtà scontate non sono. Il modo di viaggiare è cambiato negli ultimi 20 anni? Non lo so, io viaggio molto e viaggio sempre nello stesso modo, credo, quindi non lo so. Quindi non è cambiato molto? No, non credo, ma se pensiamo anche ai poi mezzi di viaggio, gli aerei sono gli stessi che c'erano 30 anni fa. Quindi su certi fronti abbiamo fatto grandi innovazioni, su certi altri siamo rimasti fermi, forse perché abbiamo raggiunto il massimo, però dobbiamo sempre sperare di poter progredire. Ci sono dei settori in cui l'incentivo alla crescita e lo sviluppo e il cambiamento è più sentito in altri, nei mezzi di trasporto forse meno. Cosa potrebbe scoprire, come ultima domanda di questa nostra conversazione, cosa vorrebbe scoprire se facesse un'innovazione molto forte? Ma forse non si può dire che cosa si può scoprire, perché anche le scoperte nascono un po' dalla casualità. Quello che credo che ognuno di noi debba scoprire è essere soddisfatto ed essere contento ogni giorno della vita, perché la vita va vissuta quotidianamente, quindi i grandi progetti sono importanti, ma la vita si vive giorno per giorno. Sembra retorica questa, ma in realtà è una cosa che tutti noi perdiamo un pochettino, persi e certo, inseriti nel contesto. Quindi scoprire se stessi è la cosa in fondo più importante. Grazie. È stata un po' la mia idea. Grazie a dottor Fabrizio Reggi Bentivoglio, presidente di FIDIAFIN, che è stato con noi questa sera. Così come ringrazio Roberto Scartitti in regia e Luca Cremonese in redazione, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.